Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, benvenute e ben ritrovate a tutte quante. Io ho il microfono troppo alto, quella che parlava di, prima di me aveva minimo 20 centimetri più di lunghezza più di me. Dunque, questa è la nostra 94esima trasmissione. Io sono Caterina e con me oggi qui c'è Rosina. Come è nostra consuetudine, per chi ci segue ormai dovrebbe essere risaputo, ogni due martedì prepariamo una trasmissione politica monotematica. L'argomento scelto per oggi è la guerra in Afghanistan e non crediate che non c'entri proprio nulla con il lesbismo, per una svariata serie di motivi, il primo tra i quali è legato al fatto che noi lesbiche viviamo all'interno di questa società e partecipiamo o subiamo, come in questo e in tanti altri casi, le scelte prese a livello politico dalle alte sfere. Riteniamo che ciò ci dia il diritto di esporre le nostre idee, continuando nel contempo a praticare una politica culturale che tende alla eliminazione degli stereotipi, di pregiudizi, discriminazioni, intolleranze, violenze, per arrivare al rispetto e alla valorizzazione delle diversità. E parlando di discriminazione, violenza e intolleranza, non si può non pensare all'Afghanistan. Ma il problema di fondo non è più, a nostro avviso, quello legato al raccontare basta tutte le violenze e i soprusi, perché secondo noi diventa di fondamentale importanza andare a leggere tra le righe, ricercare quello che c'è dietro la nascita, l'evolversi e il culmine di così tanta violenza. Anche il semplice fermarsi su immagini, fatti o accadimenti, sicuramente drammatici, traumatici, direi quasi orribili, può non essere sufficiente. Anzi, spesso questo è un gioco sporco fatto proprio da chi ha architettato tutto, per distogliere l'attenzione. Per distogliere l'attenzione da quella che è la vera causa scatenante. Si mischiano le carte in tavola facendo emergere soltanto le storie raccapriccianti di soprusi, di crudeltà. Questo significa mandare fumo negli occhi, perché in questo modo si è poi naturalmente portati a dire basta, puniamo i cattivi. E allora ecco che diventa lecito punire, appunto, ma i cattivi non sono soltanto i cattivi che fanno le cattiverie. I veri responsabili sono i mandanti. E non sto pensando a Bin Laden, o meglio non solo a lui, perché Bin Laden è stato armato da qualcuno, qualcuno che ha reso possibile la nascita, appunto, la crescita e l'evolversi di così tanta violenza. Chi c'è dietro a tutto questo e perché? A chi conveniva? Quali interessi c'erano? Chi ha potuto, per salvaguardare i propri interessi economici, disinteressarsi completamente del prezzo che qualcun altro avrebbe dovuto pagare? Chi? Ah beh, poi certo c'è il burka, è vero che c'è il burka, ma per piacere, non permettiamo che il burka diventa il fumo nei nostri occhi, in base al quale chi ha armato le mani dei cattivi possa ergersi al liberatore di donne. Ma per piacere, mettiamoci su un po' di musica. Grazie. per non smentire sempre le mie incapacità ormai risapute di tecnica, anche se mi spaccio da tale, scusate il silenzio che avete ascoltato poco fa, non riuscivo a trovare più la canzone che avevo scelto. Sta cantando Dido con un brano dal CD No Angel. Le immagini dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre scorso sembravano uscite direttamente da uno di quei film di cassetta che tanto piacciono al pubblico americano e ai produttori per ovvie ragioni, in cui i buoni sono vittime di volta in volta di una imprevedibile catastrofe naturale o più semplicemente dei cattivi di turno, non importa se arabi, portoricani, mafiosi o semplicemente negri d'America. Nell'epoca delle guerre stellari, dello scudo spaziale, dei missili intelligenti, nessuno si sarebbe mai aspettato che il pericolo venisse dal cielo, almeno non da così bassa quota, sotto forma di aereo, angelo vendicatore, per abbattere in meno di un quarto d'ora l'orgoglio di un paese che i suoi abitanti si ostinano a chiamare gigante buono e contestualmente a detronizzare il simbolo palese di tutti i capitalismi del mondo, nonché l'incrollabile mito della invulnerabilità statunitense. Ma paradossalmente quello che emerge dalle macerie fumanti è sì un paese dilaniato e ferito, ma non esattamente vulnerabile e prono. Quello che emerge è il solito paese di sempre, assertivo e veloce nell'esprimere le proprie reazioni, dispensare le proprie accuse, distribuire le proprie condanne. Così, superata la rabbia, lo sconcerto e la frustrazione iniziali, questo paese di pionieri, cowboy e petrolieri texani ha risposto nell'unico modo possibile all'ingiuria ricevuta, nell'unico modo peraltro conosciuto: scavalcare gli organi internazionali e decidere autonomamente la giusta repressione, senza interventi esterni, così come si conviene ad una grande democrazia. Come reazione al vile attacco terroristico subito, espongono con i fatti quella loro strana idea di giustizia infinita, di libertà duratura. In altre parole, la guerra sempre. Il 7 ottobre, quindi, meno di un mese dopo l'attentato, giusto il tempo di dare una rassettatina all'esercito, il governo statunitense ha dato il via all'attacco aereo contro l'Afghanistan, non senza avere prima specificato che gli Stati Uniti, aperte le virgolette, sono una nazione pacifica che rifiuta l'odio, la violenza, gli assassini e il male, chiuse le virgolette. Tutto questo con l'appoggio della coalizione internazionale, perché se è vero che gli americani prendono le proprie decisioni in autonomia, è altrettanto vero che gli altri paesi li seguono in men che non si dica, come i cani con i padroni. È bene comunque ricordare che nella sua pur recentissima storia, questa nazione pacifica, negli ultimi 60 anni, è stata protagonista di ben 20 conflitti, a partire dalla guerra con la Cina nel 1945, passando per la Corea, il Vietnam, l'Iraq, la Bosnia, la Jugoslavia, tanto per citare i più sanguinosi, e adesso l'Afghanistan. Una situazione compatibile più con uno Stato imperialista piuttosto che con una nazione pacifica. Ma tant'è, la vera molare americana è proprio questa, la forza, non importa quale, al servizio del diritto, naturalmente il proprio. Solo l'intento di perseguire la vendetta ed una scarsa strategia politica giustificano lo spiegamento di forze che gli Stati Uniti hanno messo in campo in Afghanistan contro un paese già ridotto in cenere, prima ancora dell'avvento dei talebani, messo in ginocchio da 20 anni di conflitti precedenti a questo e dall'occupazione sovietica che costarono 1,5 milioni di morti. Odio, paura della diversità, intolleranza religiosa ed interessi economici caratterizzano questo nuovo conflitto in Afghanistan, soprattutto interessi economici come in tutte le guerre del resto. Non si può dimenticare infatti che l'Afghanistan è un crocevia fondamentale per il controllo delle regioni petrolifere e per le riserve di gas dell'Asia centrale, senza contare quanto giovano i conflitti ai signori della guerra, ai mercanti di armi e agli stessi governi che sono implicati più o meno apertamente in questi vergognosi traffici. Vogliamo ricordare, e ci pare degno di nota, che i paesi che hanno aderito alla campagna internazionale contro il terrorismo sono gli stessi che finanziano il mercato mondiale, sommerso e non, delle armi di distruzione di massa, chimiche, biologiche e nucleari. Sono gli stessi che rifiutano di firmare i trattati per l'abolizione delle mine antiuomo, che invadono e devastano centinaia di aree del cosiddetto sud del pianeta, e non solo, in primo luogo in Afghanistan. Quelle stesse mine che hanno impedito alla popolazione di raccogliere gran parte dei 37.000 pacchi viveri che la generosa misericordia dei popoli americani ha provveduto a lanciare sul paese dopo averci scaricato sopra tonnellate di piombo e di morte, pena il rischio di saltare in aria o, nella migliore delle ipotesi, perdere un occhio, un braccio o una gamba. Ma d'altro canto le contraddizioni sono una costante storica nel mondo occidentale. Lo stesso Bin Laden, oggi mostro indiscusso, mandante di stragi fallite e riuscite durante la guerra con l'Unione Sovietica, non fu forse accolto con entusiasmo dagli Stati Uniti, che lo definirono l'uomo della libertà quando l'intelligence pakistana lo pose al leader e guida della jihad in Afghanistan. I talebani, del resto, dal punto di vista politico, sono stati l'agente stabilizzante scelto dalle multinazionali petrolifere americane e per loro conto anche dal governo USA, per tutelare gli interessi secondo la linea che vede la questione energetica e il controllo delle aree di produzione come un interesse primario per gli Stati Uniti. È singolare davvero osservare come gli USA in primo luogo, ma del resto tutto l'Occidente, siano oggi diventati il bersaglio di quelle stesse fazioni che hanno generosamente armato, finanziato e sostenuto per proprio vantaggio nel corso degli anni. Che sia la vendetta, giustificata o meno, di una maggioranza povera, i cosiddetti popoli del sud del mondo, nei confronti di una ricca minoranza, il mondo occidentale, sempre più arrogante e rapace, colonialista e imperialista, dedita a politiche di rapina. Ricordiamoci che oggi ottenere il sostegno degli organismi internazionali è facile, visto che questi sono diventati ormai dei semplici acronimi. Al di là del fondamentalismo religioso, l'atto terribile che ha colpito l'America non è stato forse visto da gran parte del mondo islamico come un colpo inferto alla politica imperialista non soltanto di quel paese, ma di tutto l'Occidente? Superato l'orrore iniziale e la ripulsa davanti a tanta morte, ad una così vasta distruzione, forse dovremmo interrogarci sul perché individui solitamente giovani e distruiti scelgano di immolarsi in un modo tanto atroce. Vengono in mente i kamikaze palestinesi, quei terroristi comunemente riconosciuti che trovano come giustificazione finale ai loro atti il premio dei loro paradisi. Ma la spinta iniziale, la molla che fa scattare quella lucida follia, non è stata forse l'avere subito anni e anni di ingiurie e di sopraffazioni, di missili lanciati sulle case, di famiglie che piangono i propri morti, di disinteresse della comunità internazionale. La molla non è forse il non avere più nulla da perdere, e quindi lo stesso perdere la vita equivale al nulla davanti alla splendente onorabilità del martirio. Non intendiamo naturalmente con questo giustificare alcun atto terroristico, ma semplicemente focalizzare l'attenzione su cosa sia effettivamente il terrorismo e quali siano i criteri generalmente condivisi per riconoscere un popolo, una nazione o più semplicemente un atto di terrorismo. Era infame e terroristica l'invasione del Kuwait ad opera di Saddam, ma è altrettanto terroristico che da 10 anni il popolo iracheno sia ridotto alla fame e alla disperazione da un ingiusto embargo. È terrorista la guerriglia islamica nel Kashmir, ma altrettanto lo sono la reazione e le pratiche dell'esercito indiano in quella stessa regione, per cui l'impiego di milizie prezzolate, le torture e gli assassini politici sono all'ordine del giorno. Sono terroristi i talebani, ma che cosa sta succedendo a quelli deportati a Guantanamo, che ufficialmente non sono né prigionieri di guerra, né imputati di strage di fronte alla giustizia americana? E che quindi non sono protetti né dalla Convenzione di Ginevra né dalle garanzie previste dai codici penali. Il sospetto che viene è che in questa lotta al terrorismo le regole e i principi dello Stato di diritto si stiano indebolendo e che ci siano cattivi più cattivi di altri e atti più terroristici di altri. Secondo la linea del Pentagono, sono terroristi anche gli stati che ospitano i terroristi, ma evidentemente non lo sono quelli che finanziano il fondamentalismo radicale senza per questo apparire come diretti responsabili. Non si spiega altrimenti come un paese come l'Arabia Saudita, da sempre promotore di un'idea di Islam intollerante e antioccidentale, venga considerato moderato solo in virtù di una partnership affaristica con il gigante buono e i suoi alleati occidentali. Ma torniamo all'Afghanistan e a quello che resta di questa inutile guerra. Ciò che appare evidente è che si è usata troppa forza e poca strategia politica, finendo per consegnare Kabul ad un'alleanza del nord in cui Mosca e Teheran mantengono forte la loro posizione, e che troppo tardi si è provveduto ad insediare un governo di unità nazionale a cui i talebani avrebbero potuto più facilmente offrire una resa onorevole e dignitosa, che avrebbe contribuito a diminuire l'indiscriminato bombardamento del paese. Ed infine, e non perché di secondaria importanza, la questione delle donne afghane, che sono diventate all'improvviso il simbolo di questa sconcia guerra. Facile simbolo, in realtà, abusato senza giustificazioni e per interesse di parte. Dove erano questi liberatori di donne ridotte in schiavitù, magari solo 6 mesi fa? Quante voci istituzionali si sono levate in difesa di queste donne a cui la violenza e l'ottusità dei talebani hanno tolto tutto? Poche voci. E soprattutto voci di altre donne che riconoscono da sempre le oppressioni delle loro simili, forse per corredo genetico o semplicemente per appartenenza di genere. Poche voci, e sicuramente meno di quelle che si sono levate indignate dalla comunità internazionale in occasione della distruzione dei Buddha e di altre opere d'arte. Le donne diventano simboli, come la povera Safia condannata alla lapidazione. Ma ci siamo domandate come mai si parla tanto di Safia e non lo si fa per le altre centinaia di donne che hanno subito e subiscono la stessa sorte. Si parla di Safia soprattutto per le pressioni della Chiesa Cattolica, che la considera degna dell'attenzione del mondo cristiano occidentale, per il solo merito di non aver abortito, accettando peraltro un figlio, anche se frutto di una violenza sessuale. Si è parlato per mesi dei Buddha demoliti, ma Safia è soltanto una donna, non se ne parla già più, almeno nei telegiornali sulla stampa di regime. Dal canto nostro ribadiamo il nostro impegno, essere e costruire la memoria delle donne. per ognuno un sé. Appuntamenti. Allora, per gli appuntamenti di oggi vediamo la notizia del dunque Arci Lesbica Bologna e Associazione Culturale Lesbica Visibilia presentano Immaginaria Tour terza tappa. Selezione di cortometraggi italiani tratti dalle varie edizioni del festival. Giovedì 31 gennaio presso il Cassero di Porta Saragozza 2 a Bologna. Il programma è il seguente, dunque dalle ore 22 si parla di Immaginaria, alle ore 22:30 proiezione video, a fine serata saluti con buffet. Saranno proiettati questi cortometraggi, è solo una questione di apostrofo di Antonella Restelli, Corto Miraggi di Cristina Zanetti, Ritoccandole di Annalisa De Sivo, il secondo lavoro di Cristina Boro, Rapido Finale Compassione di Luchi Massa, Viaggi Lesbici di Irene Capitelli, Sommerso di Cristina Vuolo. Che giornataccia, oggi non sopporto la mia faccia, di Simona Cangelosi. E alle proiezioni saranno presenti alcune delle registe dei cortometraggi mandati. La serata andrà a finanziare la realizzazione del 10° Festival Internazionale del Cinema Lesbico di Immaginaria. Per informazioni potete telefonare all'Arci Lesbica di Bologna allo 051 644 6902, email arcilesbi@woman.it, mentre invece l'associazione Visibilia ha come telefono lo 051 649 4276 e la email è asslv@iperbole.bologna.it. E mercoledì 23 presso il Circolo Lesbico Drasticamente di Padova ci sarà la proiezione del film Together per la regia di Lucas Moodysson. E sicuramente conoscerete la storia, il film è circolato nelle sale cinematografiche. Ve la riassumiamo, si tratta praticamente di un tentativo di convivenza tra realtà molto diverse, a volte funziona, a volte no, ed è anche un film che parla dell'amore e del divorzio, della felicità e dell'infelicità, delle famiglie, di bambini, di adulti, di amicizia, di sesso e financo di calcio, e inizia alle ore 21. Il mercoledì successivo invece, mercoledì 30, ci sarà una riunione generale, accoglienza, linea lesbica amica, programmazione del mese di febbraio e una serie di altre cose molto interessanti. Per mettervi in contatto con il Circolo Lesbico Drasticamente di Padova potete chiamare lo 049 775699 oppure potete contattare il sito www.women.it/drasticamente/home.html. Allora, prima ho dimenticato di dirvi che il brano che avete ascoltato era Mariella Nava con Il nodo, la gabbia e il seme. Adesso invece andiamo ad ascoltare Melissa Etheridge, che è una cantante che io amo tantissimo, con il brano, preparatevi al mio inglese, I Want to Come Over. Thank you. E vi ricordiamo naturalmente che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista autogestito sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. Potete contattarci direttamente in radio ogni martedì allo 0649 1750, oppure venirci a trovare ogni mercoledì presso il centro femminista separatista di via San Francesco di Sales 1B, o telefonarci allo 06 68 64 201 dalle 21 in poi, oppure lasciare un messaggio o inviare un fax. Vi ricordiamo anche il nostro indirizzo di posta elettronica clrbp@hotmail.com. Se non doveste ricordarlo, sappiate che gradiamo ogni vostra collaborazione scritta, faxata o altro. E vi anticipiamo inoltre che stiamo preparando, con l'apporto straordinario della nostra bravissima Annalisa, il sito internet Udite Udite del CLR. Per il momento è ovviamente in costruzione, però vi diciamo comunque come contattarlo: www.clrbp.it. E ascoltateci adesso, continuate ad ascoltarci. Allora, per concludere questa trasmissione di oggi leggerò un contributo che ha scritto per noi Lucilla. Dunque, le atrocità compiute sulle donne non costituiscono mai o quasi motivo di mobilitazione. Talvolta, e solo in casi eclatanti, il mondo esprime sdegno. La comunità internazionale non è intervenuta in Bosnia per gli stupri etnici, né in Somalia, dove proprio i nostri militari si sono distinti per stupri collettivi, nonché episodi di torture varie. E anche in Afghanistan l'intervento c'è stato, solo dopo l'attacco agli USA, e diciamolo, per difendere grandi interessi economici, vedi l'oleodotto. Perché dal 96 al 2001 le donne sono state prive di ogni libertà e i media ne parlavano assai poco? Rosina prima ricordava i Buddha di pietra. Quanto spazio hanno avuto sulle TV e nei giornali? Si sa, ma non si dice, che il potere è organizzato sullo sfruttamento e che in particolare un genere, quello maschile, sfrutta le donne. In alcuni casi fino alla schiavitù, vedi le aberrazioni dei paesi del terzo mondo o del mondo orientale. Ma anche le donne occidentali portano il loro burka. È fatto di lavoro sottopagato, lavoro part-time, lavoro nero, di doppio ruolo in famiglia e fuori, di poca o nulla presenza nelle sedi istituzionali, di pornografia e dobbiamo proprio continuare? Quante donne protestano per le pubblicità offensive che ledono la dignità femminile? Quante intentano cause di lavoro per far valere i propri diritti nell'ambito dei passaggi di carriera? Quante evitano di star fuori la notte per evitare rogne? E magari tutte queste donne sono convinte di stare dalla parte giusta, di saper vivere e scegliere in piena libertà. Certo, niente a che vedere con le frustate in pubblico, le mutilazioni, le bastonate, gli stupri, eccetera. Ma siamo sicure di essere libere? Anche quando gli articoli di esperti su riviste scientifiche ci convincono che la sessualità penetrativa è quella che dovrebbe farci godere, e se non succede perché abbiamo problemi. Quando dai rotocalchi ci indicano la via della bellezza e della seduzione come quella per affermarci e stare bene. Eh già, le donne involucre sono sempre più libere. Ma di chi? E noi bravi a dimenticare e lasciar cadere, mentre dovremmo attaccare politicamente e culturalmente l'ordine così costituito. Pare che dire che le donne nel mondo sono le vere sfruttate, oltre ad essere passato di moda, sia anche di cattivo gusto, con tanti che soffrono e muoiono di fame, e la carità cristiana, la mistica sulla maternità, le bambine che devono essere buone e posate, ma basta. Yeah.